Vuoi partecipare alla vita del tuo quartiere? Ti interessa l'assegnazione di un orto urbano? Se ti interessa l'assegnazione di un orto urbano, puoi presentare domanda per l'assegnazione di un orto quando vuoi. Puoi presentare la domanda all'ufficio di quartiere che se ne occupa, oppure presentare la domanda attraverso il sito internet del comune. Nella pagina internet indicata qui sotto, clicca su Presenta la domanda. Se fai domanda di assegnazione, puoi indicare da una a tre aree ortive a cui sei interessato, sia nel tuo quartiere di residenza, sia in altri quartieri. Se vuoi sapere dove sono gli orti a Bologna, clicca sul link qui sotto e vedi la mappa di tutti gli orti presenti in città.